braccia aperte, ispiro la tua voce. Di colpo perso in favole incantate, madama delle fate, il principe ribelle che si lascia trasportare via, via. Un volo istintivo verso il mare e le sue stelle, travolto, coinvolto da occhi di sirena, sirena, sirena, cantami e fatti prendere, la tua poesia si agita e vive in versi dentro me e mi accompagna per la rotta di percorsi sempre vivi. Sguardo e un bacio su una mano e poi il pirata salpò. Sei la mia rotta di respiro ovunque sto, aria limpida di mare. Si agita e vive in versi dentro me e mi accompagna per la